Terzo anello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Traduzione di Paola Capriolo. 22 maggio. Che la vita dell'uomo sia solo un sogno è già parso a molti, e anche con me si accompagna spesso questo sentimento. Quando considero i limiti in cui sono rinchiuse le facoltà pratiche e indagatrici dell'uomo, quando vedo come ogni attività metta capo alla soddisfazione di bisogni che a loro volta non hanno alcuno scopo se non di prolungare la nostra misera esistenza, e ancora come ogni accontentarsi di certi risultati della ricerca sia semplicemente la rassegnazione del sognatore, pago di decorare con figure variopinte e luminosi paesaggi i muri della sua prigione, tutto questo, Wilhelm, mi fa ammutolire. Poi torno a guardare me stesso e trovo un mondo, ma fatto a sua volta più di presentimento e di oscuro desiderio che di rappresentazione oggettiva e vivente energia. Allora tutto mi ondeggia davanti alla mente e sorridendo, sognando, continuo a vivere nel mondo. Sul fatto che i fanciulli non sappiano cosa vogliono, tutti i maestri e i precettori sono concordi, ma che anche gli adulti vadano brancolando come fanciulli su questa terra e come quelli non sappiano da dove vengono e dove vanno, che agiscano altrettanto poco secondo veri scopi e si lascino governare allo stesso modo con dolci e biscotti e bacchette di betulla, questo nessuno sarà propenso a crederlo, mentre a me sembra si possa toccarlo con mano. So cosa vorresti dirmi in proposito e riconosco di buon grado che i più felici sono coloro cui è dato di vivere alla giornata come i fanciulli, di trascinarsi appresso le loro bambole, di spogliarle e rivestirle e di ronzare con grande reverenza intorno al cassetto dove la mamma tiene chiuso il marzapane. E quando infine riescono a carpire l'oggetto del loro desiderio, di divorarlo a quattro palmenti e gridare «Ancora!» Quelle sono creature felici. Se la passano bene anche coloro che danno nomi altisonanti alle proprie meschine attività o addirittura alle proprie passioni e le mettono in conto al genere umano come grandiose imprese per la salute e la prosperità di esso. Fortunato chi riesce a essere così. Ma chi nella sua modestia capisce a cosa conduca tutto ciò? Chi vede con quanto garbo ogni borghese cui le cose vanno bene sappia adattare a paradiso il proprio giardinetto? E quanto instancabilmente anche lo sventurato continui per la propria strada, ansimando sotto il fardello, e come a tutti stia a cuore in egual misura di vedere per un minuto di più la luce di questo sole, costui rimane tranquillo e costruisce anch'egli il suo mondo traendolo da se stesso ed è anch'egli felice perché è un uomo. E allora, per quanto sia costretto entro limiti angusti, conserva sempre nell'animo il dolce sentimento di essere libero e di poter lasciare questo carcere quando vorrà. Maggio. Tu conosci da tempo il mio modo di stabilirmi in un luogo, costruendomi una piccola capanna in un angolo appartato e là dimorando in assoluta economia. Anche qui ho trovato un posticino che mi ha attratto. A circa un'ora dalla città c'è un paese chiamato Wallheim. Il lettore non si prenda la briga di cercare i luoghi qui menzionati. Ci siamo visti costretti a modificare i nomi veri che comparivano nell'originale. La posizione, su una collina, è molto pittoresca e salendo al villaggio per il sentiero si può abbracciare con lo sguardo l'intera vallata. Una brava ostessa, gentile e vispa per la sua età, offre vino, birra e caffè. Ma la cosa più importante sono i due tigli che davanti alla chiesa coprono con gli ampi rami la piazzetta, cinta tutto intorno da case di contadini, granai e cortili. Un luogo così intimo, così accogliente, non mi è accaduto spesso di vederlo. Perciò dall'osteria mi faccio portare là il tavolino e la sedia, là bevo il mio caffè e leggo il mio Omero. La prima volta che capitai sotto i tigli in un bel pomeriggio, trovai la piazzetta deserta. Tutti erano nei campi. Solo un fanciullo sui 4 anni sedeva per terra e ne teneva un altro di circa 6 mesi seduto davanti a lui, fra un piede e l'altro, stringendolo al petto con entrambe le braccia, sicché gli faceva quasi da poltrona. Ed era completamente immobile, sebbene i suoi occhi neri si guardassero intorno con vivacità. Quello spettacolo mi piacque. Sedetti su un aratro, che si trovava di fronte, e mi diedi a ritrarre con grande diletto la posa fraterna. Vi aggiunsi lo steccato più vicino, la porta di un granaio e alcune ruote rotte di carro, ogni cosa nell'ordine così com'era. E trascorsa un'ora scoprì di aver portato a compimento un disegno ben proporzionato e molto interessante, senza avervi introdotto assolutamente nulla di mio. Ciò mi confermò nel proposito di attenermi in avvenire soltanto alla natura. Essa sola è infinitamente ricca ed essa sola crea il grande artista. In favore delle regole si possono dire molte cose, pressappoco le stesse che si possono dire in lode della società borghese. Chi si forma su di esse non produrrà mai nulla di brutto o di volgare, proprio come chi si lascia plasmare dalle leggi e dal decoro non diventerà mai un vicino insopportabile o un delinquente degno di nota. Ma al tempo stesso, si dica quello che si vuole, qualsiasi regola distruggerà il sentimento autentico della natura e l'autentica espressione di quest'ultima. Tu replicherai: tutto ciò è eccessivo, la regola non fa altro che porre limiti, tagliare i tralci troppo rigogliosi, eccetera, eccetera, mio caro amico. Posso spiegarmi con un paragone? È come per l'amore. Un giovane cuore ripone interamente il suo affetto in una fanciulla, trascorre con lei tutte le ore del giorno, prodiga tutte le sue energie e i suoi averi per dimostrarle in ogni momento di essere totalmente devoto. Ed ecco, arriva un filisteo, un uomo che riveste una carica pubblica, e gli dice: egregio signore, amare è umano, ma voi dovete amare umanamente. Suddividete le vostre ore, assegnando le une al lavoro, le altre al riposo e queste ultime dedicatele alla vostra ragazza. Calcolate l'ammontare del vostro patrimonio e ciò che vi avanza una volta soddisfatte le vostre necessità, non vi vieterò certo di impiegarlo per farle un regalo, solo non troppo spesso, magari per il suo compleanno e per il suo onomastico, eccetera, eccetera, eccetera. Se il giovane gli dà ascolto, diverrà un uomo capace e io stesso consiglierei a qualsiasi principe di inserirlo in un collegio di funzionari. Ma per il suo amore è la fine. E se egli è un artista, è la fine per la sua arte. Amici miei, perché il fiume del genio prorompe così di rado ribolle in alti flutti e scuote le vostre anime stupite? Cari amici, sulle due sponde abitano signori tranquilli e i loro padiglioni da giardino, i loro orticelli e le loro aiuole di tulipani ne sarebbero travolti, perciò arginando e deviando essi hanno imparato a stornare il pericolo incombente. Maggio. Mi accorgo di essermi smarrito in estasi, similitudini e perorazioni, e di aver dimenticato di raccontarti come è andata a finire con i bambini. Me ne stavo seduto sul mio aratro da circa 2 ore, tutto assorto nel sentimento pittorico di cui la mia lettera di ieri ti ha dato una descrizione piuttosto frammentaria, quando, verso sera, una giovane donna con un paniere al braccio venne incontro ai fanciulli, che per tutto quel tempo non si erano mossi, e gridò da lontano: «Sei proprio bravo, Phillips!» Mi salutò. Io la ringraziai, mi alzai, mi avvicinai a lei e le domandai se fosse la madre dei bambini. Rispose di sì. E mentre dava un filone di pane al più grande, prese in braccio il minore e lo baciò con tutto il suo amore materno. «Ho dato da tenere il piccolo al mio Phillips», disse. «E con il figlio maggiore sono andata in città a prendere pane bianco, zucchero e un tegamino di terracotta». Vidi tutto questo nel paniere, il cui coperchio era caduto. Per cena voglio cucinare una zuppa al mio Hans. Tale era il nome del figlio minore. Ieri il grande, quel monello, mi ha rotto il tegame mentre litigava con Phillips per poter raschiare dalla pentola gli avanzi della pappa. Chiesi notizie del maggiore e lei mi aveva appena risposto che stava inseguendo certe oche nel prato quando egli giunse saltellando e portando una verga per il fratello mezzano. Mi trattenni ancora a conversare con la donna e appresi che era la figlia del maestro di scuola e che suo marito era partito per la Svizzera dove doveva farsi consegnare l'eredità lasciata da un cugino. Volevano imbrogliarlo, disse, e non rispondevano alle sue lettere. Allora è andato di persona. Purché non gli sia capitata una disgrazia, non ho più saputo niente di lui. Mi fu difficile congedarmi dalla donna. Diedi una moneta a ciascuno dei bambini e ne diedi una anche a lei per il più piccolo, perché gli comprassi un filone di pane da mangiare con la zuppa quando fosse andata in città. E così ci separammo. Credimi, mio caro, quando i miei sensi non vogliono più reggere tutto il tumulto, si placa alla vista di una simile creatura. che percorre infelice abbandono il cerchio della sua esistenza, che vive alla giornata e vedendo cadere le foglie pensa soltanto: sta arrivando l'inverno. Da allora torno spesso in quel luogo. I fanciulli si sono ormai abituati alla mia presenza. Quando bevo il caffè si fanno dare lo zucchero e la sera dividono con me pane imburrato e latte acido. La domenica non faccio mai mancare loro le monete e se non sono là dopo l'ora della preghiera lo stessa all'ordine di distribuirle per me. Hanno preso confidenza, mi raccontano ogni sorta di cose e io traggo un particolare piacere dall'osservare le loro passioni e il candido prorompere dei loro desideri quando si radunano molti bambini del villaggio. Mi è costato una gran fatica cancellare nella madre la preoccupazione che potessero dar fastidio al Signore. 30 maggio. Quanto ti scrissi di recente sulla pittura vale senza dubbio anche per l'arte poetica. Si tratta solo di riconoscere quello che è eccellente e di osare esprimerlo, e con ciò è detto molto in poche parole. Oggi ho assistito a una scena che, trascritta tale e quale, costituirebbe il più bell'idillio del mondo. Ma perché usare termini come poesia, scena, idillio? Dobbiamo dunque dar sempre una forma artificiale ai fenomeni naturali per poter sentirci partecipi del loro accadere. Se dopo un simile preambolo ti aspetti qualcosa di nobile e sublime, rimarrai deluso. È stato semplicemente un giovane contadino a destare in me una così appassionata simpatia. Narrerò male, come al solito, e tu come al solito penserai probabilmente che esagero, ma è Wallheim, ancora e sempre Wallheim, a produrre queste rarità. Un gruppo di avventori stava fuori sotto i tigli a bere il caffè. Poiché non mi andavano molto a genio, con una scusa rifiutai di unirmi a loro. Un giovane contadino uscì da una casa non distante e si mise ad aggiustare qualcosa nell'aratro che avevo disegnato pochi giorni prima. Il suo aspetto mi piacque, perciò gli rivolsi la parola e lo interrogai sulla sua condizione. Facemmo presto conoscenza e presto, come mi succede spesso con quel genere di persone, diventammo amici. Mi raccontò di essere a servizio di una vedova che lo trattava molto bene. Parlò tanto di lei e la lodò in modo tale che ben presto mi resi conto di come le fosse devoto, anima e corpo. Non era più giovane, disse. Era stata maltrattata dal primo marito e non voleva risposarsi. E dal suo racconto si capiva in modo così chiaro quanto bella e attraente fosse per lui quella donna, quanto egli desiderasse di essere scelto da lei per cancellare il ricordo delle colpe commesse dal suo primo marito, che io dovrei ripeterlo parola per parola se volessi rappresentarti con evidenza il puro affetto, l'amore e la fedeltà di quell'uomo. Sì, dovrei possedere le doti del più grande poeta per poter descriverti contemporaneamente in modo efficace l'eloquenza dei suoi gesti, l'armonia della sua voce, il fuoco segreto dei suoi sguardi. Ma nessuna parola è in grado di esprimere appieno la gentilezza della sua indole e del suo atteggiamento. Tutto ciò che potrei ancora dire sarebbe soltanto goffo. Soprattutto mi commosse il timore che io fraintendessi i suoi rapporti con la padrona e dubitassi della condotta onesta di lei. La grazia con cui parlava di quella figura, di quel corpo che pur senza le seduzioni della giovinezza lo attraeva e lo affascinava potentemente, so rievocarla soltanto nell'intimo della mia anima. In vita mia non avevo mai veduto la brama assillante e il fervido, bruciante desiderio in una tale purezza. Anzi, posso quasi affermare che in una tale purezza non li avevo mai neppure concepiti o sognati. Non rimproverarmi se ti dico che al ricordo di quell'innocenza e di quella verità mi sento ardere nel profondo del cuore e che l'immagine di quella fedeltà e di quella tenerezza mi perseguita ovunque io vada e che languo e mi struggo come se io stesso ne fossi acceso. Ora voglio cercare di vedere al più presto anche lei, o piuttosto, pensandoci bene, voglio evitarlo. È meglio che io la veda attraverso gli occhi del suo innamorato. Forse ai miei propri occhi non apparirebbe così come ora mi sta dinanzi. E perché dovrei guastarmi questa bella immagine? Giugno. Perché non ti scrivo? Me lo domandi? Eppure sei anche tu un iniziato. Dovresti indovinare che sto bene. E anzi, in breve, ho fatto una conoscenza che tocca il mio cuore più da vicino. Non saprei. Sarà difficile raccontarti con ordine come mi è accaduto di conoscere una creatura fra le più amabili. Sono felice e soddisfatto e dunque un pessimo narratore. Un vero angelo. Questo lo dice chiunque della donna amata, non è vero? E tuttavia non sono in grado di spiegarti quanto ella sia perfetta e perché sia perfetta. Insomma, ha vinto tutti i miei sensi, facendoli prigionieri. Tanta ingenuità con tanto intelletto, tanta bontà con tanta fermezza e la pace dell'anima unita al vero amore e all'operosità. È solo un cianciare ripugnante quanto ti ho detto di lei, miserevoli astrazioni che non esprimono neppure un tratto della sua personalità. Un'altra volta, no, non un'altra volta, adesso, all'istante voglio raccontartelo. O adesso o mai più, perché... Resti fra noi. Da quando ho iniziato questa lettera, sono stato già 3 volte sul punto di posare la penna, di farmi sellare il cavallo e di uscire. Eppure questa mattina avevo giurato a me stesso che non sarei uscito a cavallo. Eppure vado ogni momento alla finestra per vedere quanto è ancora alto il sole. Non ho saputo trattenermi, sono dovuto andare da lei. Ora sono di nuovo qui, Wilhelm. Mangerò per cena il mio pane imburrato e ti scriverò. Quale gioia è per la mia anima vederla nella cerchia di quei cari, vivaci bambini, dei suoi 8 fratelli. Se continuo di questo passo, alla fine ne saprei tanto poco quanto all'inizio. Ascolta dunque, voglio costringermi a entrare nei particolari. Ti scrissi di recente di aver conosciuto l'amministratore S e ti dissi che egli mi aveva invitato a fargli presto una visita nel suo eremo, o meglio, nel suo piccolo regno. Trascurai l'invito e forse non ci sarei mai andato se il caso non mi avesse svelato quale tesoro si nasconda in quel luogo di pace. La nostra gioventù aveva organizzato un ballo campestre al quale anch'io accettai volentieri di partecipare. Mi offrì di accompagnare una fanciulla del posto, bella, buona e per il resto insignificante, e fu stabilito che io avrei noleggiato una carrozza, sarei partito per il luogo della festa con la mia dama e una cugina, e lungo la strada avrei preso con me Charlotte S. «Conoscerà una bella signorina», disse la mia compagna, mentre viaggiavamo verso il casino di caccia attraverso la vasta foresta cedua. «Stia attento», intervenne la cugina, «a non innamorarsene». «E perché?» domandai. «È già fidanzata», rispose quella, «con un uomo eccellente che ora è in viaggio per sistemare i propri affari, essendogli morto il padre, e per farsi una posizione ragguardevole». La notizia mi fu pressoché indifferente. Mancava ancora un quarto d'ora al tramonto quando giungemmo davanti al portone del cortile. C'era un'afa soffocante e le mie compagne si mostrarono preoccupate per un temporale che sembrava si preparasse fra le piccole nubi cupe e grigiastre da cui era chiuso l'orizzonte. Tentai di placare la loro apprensione con uno sfoggio pretenzioso di cognizioni meteorologiche, sebbene io stesso cominciassi a temere che la nostra festa avrebbe subito un brutto colpo. Ero sceso dalla carrozza e una domestica venne sulla porta pregandoci di attendere un momento. La signorina Lottken ci avrebbe raggiunti subito. Attraversai il cortile dirigendomi verso la casa dalla piacevole architettura e dopo essere salito per la scala e aver varcato la soglia mi trovai di fronte lo spettacolo più grazioso che avessi mai visto. Nell'ingresso, 6 bambini, dai 2 agli 11 anni, brulicavano intorno a una fanciulla di bell'aspetto, di media statura, che indossava un semplice abito bianco con nastri rosa sulle maniche e sul petto. Teneva in mano un pane nero e ne tagliava i piccoli da cui era attorniata una fetta per ciascuno, in proporzione alla loro età e al loro appetito. Lo distribuiva con tanto garbo e ognuno gridava il suo grazie in un modo così spontaneo, tenendo a lungo le piccole mani protese verso l'alto prima ancora che la fetta fosse tagliata, e poi o correva via soddisfatto con la sua cena, oppure, se era di indole più tranquilla, si avviava placidamente verso il portone del cortile per vedere i forestieri e la carrozza sulla quale la loro lotte sarebbe partita. «Chiedo scusa», disse lei, «se la ricevo qui e se faccio aspettare le signorine. Occupata a vestirmi e a lasciare tutte le istruzioni per il governo della casa durante la mia assenza, avevo dimenticato di dare la merenda ai miei fratellini ed essi non vogliono farsi tagliare il pane da altri che da me». Risposi con un complimento insignificante. Tutta la mia anima rimaneva concentrata sulla figura, sulla voce, sul contegno della fanciulla. Mi ero appena riavuto dallo stupore quando ella corse in camera a prendere guanti e ventaglio. I piccoli mi guardavano, diffidenti, da una certa distanza, e io mi avvicinai al più giovane, un bambino dai lineamenti quasi perfetti. Lui si ritrasse, ma proprio in quel momento Lotte comparve sulla soglia e disse: «Luis, dà la mano al signor cugino». Il fanciullo obbedì con molta naturalezza e io non seppi trattenermi dal baciarlo teneramente, senza badare al suo nasino sporco. cugino, dissi tendendole la mano. Mi crede davvero degno della fortuna di esserle parente? Oh, rispose lei con un sorriso spensierato. La cerchia dei nostri cugini è molto vasta. Mi dispiacerebbe se fra loro proprio lei dovesse rivelarsi il peggiore. Nell'andarsene affidò a Sophie, la sorella più grande dopo di lei, il compito di avere buona cura dei bambini e di salutare papà quando fosse rincasato dalla sua passeggiata a cavallo. Ai piccoli disse che avrebbero dovuto obbedire alla loro sorella Sophie come se fosse stata lei in persona e alcuni lo promisero. Una invece, una biondina saccente sui 6 anni, ribatté: «Ma non sei tu, Lottchen, a te vogliamo più bene». I 2 ragazzi più grandi si erano arrampicati dietro alla carrozza e per mia intercessione Lotte permise loro di viaggiare con noi fino al limitare della foresta, purché promettessero di non punzecchiarsi a vicenda e di tenersi ben saldi.